E buchi buchi buca lo portone, chi busta lo portone, e lo monaco cappuccino, ti dito puttellario là, lo monaco cappuccino che vola limosina, ti faccio la limosina e batinde, ti faccio la limosina e batinde. C'hai una figlia bella, ti tutelario là, c'hai una figlia bella che è malata, chi è malata fa la visitare, chi è malata fa la visitare, chiamaci un dottore, ti tutelario là, chiamaci un dottore che la può guarire, e lo dottore di nella mattina. E lo dottore di nella mattina. Chiudetemi si porti dritto puttellario là, chiudetemi si porte si finisci, caiude visitare dritto puttellario là, caiude visitare sta malata, la vostra figlia è grava malata, la vostra figlia è grava malata. Tua figlia non devo, ti tutelario là, tua figlia non devo, penicellina. Cavonno maritello, ti tutelario là, cavonno maritello, la figlia vostra. Mamma caluto torre m'ha guarito, mamma caluto torre m'ha guarito. Ma canusciuto là, ti tutelario là, ma conosciuto la mia malattia.